c'è Neswan. Dentro ste quattro mura, fidati, è stata dura. È il momento. Non sono uno che vede ciò che non c'è. Non mi faccio illudere, spesso lo faccio io per me. Ho imparato dai miei a non pretendere. Se vuoi troppo finirai per perdere. Se hai da perdere, lo so per certo è un eterno vivere contro vento. Sei al ristorante a farti i conti chiedendo il coperto. Quando individui il cammino dici ne sono certo. Arrivano i problemi e credi di avere già perso. Vuoi la verità, la vita è fatta di priorità. Cosa viene per primo e per ultimo poi si vedrà. Ci sarà sempre qualcuno che ti dirà: smetti di sognare e cresci, poi ti passerà. Aggrappati a quel sogno, ti farà vivere. Immagina sia domani non smettere di sorridere. E se non sei ancora pronto, tranquillo, ritornerà. Com'è successo, è passato tanto, ma ora è il momento, fra. Ricordo quando ero l'unico sopravvissuto, l'unico a credere ancora nel proprio futuro. Come da bambini, quando si credeva in Dio, ancora non dicevi qui ci sono solamente io. Ricordo quando ero l'unico, forse lo sono ancora. Da piccolo in giro per casa, in testa le lenzuola. Io vedevo tutti e nessuno vedeva me. Ero sicuro, avevo il potere di decidere chi essere. Non serve altro, un microfono, quattro mura, io frego insieme destino, fortuna, karma e Dio. No, non credo a sta roba, io sono come il Neo. L'eletto che aspettavi, ma non ti salverò, anzi ti ucciderò, ti farò a pezzi. Magiche rime, sempre testi onesti come questi. In mezzo a ste parole neanche una banalità. Se vuoi roba uscita dal cuore, fai bene a restare qua. Ricordo quando ero l'unico sopravvissuto, l'unico poi abbandonato e non ci ho più creduto. Come il regalo di Natale che in realtà lo fanno i tuoi. E prendi che tutti ti mentono, persino i tuoi ricordo. Mi dissero di andare avanti e non fermarmi, combattere senza armi. Tutto poi finisce bene, lieto fine. Io ci credo e ci crederò fin quando morirò, rischiando l'illusione come una religione. Quattro mura, una prigione. Mi chiudo dentro, butto la chiave, libero il mio interiore. Quello che fuori non vedrete mai. Ringrazio sempre per quello che hai. Non sono il solo ad avere questa passione. Faccio il rap, il mondo è la mia fonte di ispirazione. La differenza è che con me sta roba è viva. Se ti è piaciuta la traccia, passa alla successiva.